24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8, 15 minuti e 20 secondi inizia la terza parte di 24 Mattino di questo martedì 24 marzo. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno e buongiorno Maria Latella. Buongiorno Simone, buongiorno a tutti tranne che ai covidioti, cioè a quelli che nonostante gli sia stato detto in tutti i modi ancora non l'hanno capito e per esempio l'altra notte in macchina erano sul traghetto che dalla Calabria portava in Sicilia, suscitando giustamente la reazione degli amministratori. Sì, in realtà devo dirti la verità. La ministra Lamorgese ha detto e ha fatto sapere il Viminale: guardate che i controlli li abbiamo fatti e la gente che è passata col traghetto era autorizzata. Si trattava di pendolari o addirittura in alcuni casi di uomini delle forze dell'ordine. Quindi, insomma, uomini questa delle protesta... forze dell'ordine ammessi. Gli altri che un po' i pendolari ancora no? In giro. No, i pendolari sì, però voglio dire gli altri che in giro ancora insistono, no. Però c'è da dire che i nuovi dati ci confortano, perché vuol dire che mentre la curva un pochino discende, un pochino, l'idea che al nord soprattutto, ma anche a Roma mi dicono, tutti si attengano alle norme, è un bel segnale, un segnale che gli italiani le regole le sanno rispettare, lo citavo prima, il dato del Ministero dell'Interno mi sembra interessante, cioè il tasso di non rispetto delle regole si aggira intorno al 5%, tra l'altro è un non rispetto delle regole per così dire solo denunciato, insomma poi bisogna provarlo che effettivamente non ci sia stato rispetto delle regole, e ci sono anche casi particolari, no? Lo raccontavamo l'altro giorno, la coppia di anziani, marito e moglie, che vanno in mezzo alla campagna per asparagi, vengono beccati e denunciati. Beh, insomma, non mi sembra un comportamento molto a rischio questo, tutto sommato, però... No, mentre ha rischiato molto quel poveraccio che per il rispetto delle regole è stato ucciso. Adesso vedremo poi i dettagli della cosa, ma insomma, stando alle cronache, il fatto è accaduto l'altro ieri, insomma, il povero Fondi che ha cercato di impedire a uno che era in zona rossa, perché Fondi è l'unica zona rossa del Lazio, di uscirne ed è stato ucciso. Cioè, situazioni che hanno bisogno ovviamente di essere controllate, ma fammi restare nel Lazio perché io non mi capacito. L'abbiamo detto qui, proprio qui a Radio 24 Mattino, che il Lazio ha questa nuova app per contattare il medico quando c'è la necessità, si chiama Lazio Covid e consente a tutti i cittadini che per esempio hanno sintomi legati al Covid-19, la febbre, tosse, bruciore, di entrare in contatto con il medico e anche di, come dire, far sapere se sono stati in contatto stretto con persone positive del Covid. Ora, il Lazio si è dotato di questa app da qualche giorno. Mi chiedo, ma le altre regioni che ora cominciano a dotarsene, quelle che per prime sono state investite dall'epidemia, non potevano farlo prima pure loro? Avrebbero potuto farlo. Senti, facciamo una cosa, mentre siamo in attesa del nostro primo ospite, che sarà Massimo Galli, il direttore del Dipartimento Malattie Infettive del Sacco di Milano. Sentiamoci qualche ascoltatore, va. Ce l'abbiamo, Peter Bescapè, andiamo, via. Sentiamoci qualche WhatsApp di ascoltatori che ci sono arrivati questa mattina, via. Buongiorno Simone, ho sentito adesso l'infermiere che giustamente si lamenta del suo stipendio, 13 euro lorde l'ora sono veramente una vergogna, io trasporto gas medicali agli ospedali, in questo periodo lavoriamo giorno e notte e noi guadagniamo 7 euro l'ora. Ciao, buongiorno, sono Elena da Firenze, sto per partire per andare al lavoro, perché lavoro in un supermercato. Sinceramente io sono molto felice di andare al lavoro, perché un lavoro ce l'ho, perché alla fine di tutta questa cosa non tutti ce l'avranno, credo, ancora. Vorrei fare un ringraziamento a tutti quelli che come me lavorano nel supermercato, a tutti i miei collaboratori che tutti i giorni teniamo aperte le nostre attività per garantire il cibo a tutti. E rischiamo tutti i giorni. E allora, eccoli noi, i nostri ascoltatori. Con voi, certo, siamo con voi. Le persone che lavorano nei supermercati. Tra l'altro, su questo tema dei supermercati ne abbiamo parlato alle 6.30, si è acceso un dibattito perché ci sono una serie di ordinanze regionali che prevedono, per esempio, la chiusura la domenica, il caso del Veneto, il caso dell'Emilia-Romagna, e ci sono altre regioni le quali rimangono aperti, mentre il sindaco di Roma, Virginia Raggi, vediamo se con Peter Bescapè riusciamo a recuperare l'audio che abbiamo già fatto sentire questa mattina, il sindaco Virginia Raggi dice, insomma, qua abbiamo la Regione Lazio che limita gli orari di apertura. Secondo me, invece, andrebbero ampliati questi orari. Via. Durante la scorsa settimana la Regione ha deciso di ridurre l'orario di apertura dei supermercati. Io ho chiesto comunque alla Regione Lazio di rivedere gli orari, perché evidentemente degli orari più ampi e delle giornate più ampie per fare spesa consentono di diminuire la concentrazione di persone. E anche qua dibattito aperto, a fronte di tutte le file. Ci sono ascoltatori che ci suggeriscono attraverso i messaggi, ma non si potrebbe dare a tutti noi attraverso le app, perché ormai siamo entrati nella dimensione tecnologica, dei messaggi per farci sapere quante ore di fila bisogna fare, così prima di andare al supermercato ci attrezziamo. È un'idea, può essere un'idea, scaglionare le presenze davanti al supermercato, perché a volte dura un'ora e mezza se si entra uno alla volta, il tempo vola. Guarda, ne abbiamo parlato questa mattina con il presidente di Coop, tra l'altro lo dico agli ascoltatori, se vogliono possono andarsi a recuperare alle 6.30 il podcast e sentire che cosa ha da dire. È un po' perplesso su questa soluzione, dice è molto difficile da adottare per quanto riguarda un supermercato, però insomma qualche soluzione da questo lato andrà trovata. Almeno quello di quartiere, quello più vicino, secondo me possono provarci. Ormai siamo in una dimensione di app miracolistiche, devono risolvere tutto loro. 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, sempre 349 238 6666, per gli sms, i messaggi su WhatsApp, anche audio. L'altra questione sul tappeto è quella ovviamente delle fabbriche. Questa mattina ci sarà un incontro tra governo e parti sociali esattamente per definire questo. Molti ascoltatori ci scrivono, io devo andare al lavoro ma la mia azienda non mi sembra un'azienda essenziale, e però naturalmente, come dicevamo, la filiera è molto lunga, no? Allora ci scrive l'ascoltatore, dice la mia azienda si producono, si fanno macchine per di fatto falciare l'erba per gli falci, e quale agricoltore se la compra? Magari l'agricoltore non se la compra, però magari nei servizi pubblici cosiddetti essenziali, che comprendono anche evidentemente la cura di parchi e giardini, serve un pezzo di ricambio, e se chiudi quella fabbrica il pezzo di ricambio non c'è, la manutenzione finisce, la come vedete è lunga questione, la cosa economica è al centro di tutte le preoccupazioni in tutti i paesi. Basta vedere per esempio il dubbio che attanaglia il presidente Trump negli Stati Uniti, che ha dedicato gli ultimi giorni a una specie di stop and go, come tanti primi ministri, tanti capi di Stato. Prima ha detto che non chiudeva niente, poi invece è stato costretto a scegliere la linea dura, ma i timori per l'economia fanno sì che dica chiudiamo per ora, ma poi riapriamo perché le aziende non possono rimanere chiuse. Allora c'è un'ipotesi che è interessante, la sottopongo un po' anche ai nostri ascoltatori. I suoi consiglieri, proprio per evitare che la recessione abbia effetti disastrosi sull'economia americana e anche poi su quella globale, suggeriscono di sottoporre tutti ad una quarantena ferrea per 2 settimane e poi iniziare a rimandare al lavoro chi non ha sintomi, magari con la mascherina. Perché il problema è esattamente questo. Chiudere totalmente le aziende significa mettere, come dire, un'ipoteca su, non solo sulla possibile riapertura, ma sulla possibile capacità di riprendere i ritmi. È un tema, è un grande dubbio, ne parleremo proprio con la ministra Bellanova più tardi. Molti ascoltatori ci segnalano, ci dicono, guardate che in Lombardia, almeno in Lombardia, non so se in altre parti d'Italia, c'è quest'app che si chiama Fila Indiana, che ti consente di capire quanta fila c'è ai supermercati, però quello a cui ci riferivamo era l'idea di un ingresso scaglionato. Sentiamo l'ascoltatore Adriano da Teramo, buongiorno. Buongiorno a voi. Prego. Allora, io chiamo perché mi occupo di impianti per lavoro, di impianti di riscaldamento, di condizionamento. sono un fisico e diciamo vorrei intervenire riguardo il discorso dei supermercati. Prima di tutto perché ritengo sbagliato il discorso di chiudere la domenica proprio in maniera da concentrare negli altri giorni poi gli acquisti. Perdonate. Prego. Ma quello che ci preoccupa questa tosse, eh? Esatto. No. Allora, quello che vorrei sottolineare invece è questa cosa qui. Siccome in tutti i locali chiusi normalmente ci sono impianti di riscaldamento e di condizionamento che per come sono strutturati, per come sono fatti, effettuano una miscelazione dell'aria, una omogenizzazione dell'aria. Quindi parliamo di 8-10 volumi all'ora che questi impianti normalmente fanno. E quindi questo, secondo me, produce una omogenizzazione dell'aria che rende, non dico inutili, ma sicuramente molto ridotto l'effetto della distanza. Però Adriano, mi scusi, noi questa questione dovremmo incrociarla con le informazioni che ci può dare un virologo, un infettivologo che ci dice effettivamente che cosa succede a questo virus nel momento nel quale entra nel ricircolo dell'aria. Cioè lei capisce che detta così mette paura a tutti, però insomma in realtà non più tardi avremo Massimo Galli, magari una domanda su questo gliela faremo. Barbara da Monza, sarà buongiorno. Anche utile, sì. O dalla provincia di Monza e Brianza. Buongiorno Barbara. Buongiorno, prego Barbara. Da un piccolo paesino che si chiama Osmate Velate. Conosciamo bene Osmate Velate. Ah sì, benissimo. Bene, diciamo come bene, uscita autostradale. Ho avuto una collega di Osmate, per questo lo conosco. Allora. Bene, prego Barbara. Allora, dunque noi abbiamo sul territorio un supermercato di una catena famosa nella Brianza. Il nostro comune, come indicazione, prima dicevate per fare la spesa, le lunghe file, eccetera, eccetera. Il nostro comune ha dato come indicazione ai cittadini per fare la spesa di andare in alcuni giorni specifici in base all'appartenenza alla circoscrizione di voto. Ah, vedi? Io sono della circoscrizione numero 5, posso andare a fare la spesa? Posso andare sempre perché è un'indicazione e diciamo non è che se vado in giorni diversi vengo multata, sì. Però l'indicazione è di suddividersi, io posso andare il martedì e il venerdì. Possibilmente andateci in quei giorni, vi diamo un'idea di suddivisione e voi provate a muovervi, anche questo non è male. È un modo ordinato, un po' come si fa quando ci si mette in fila per prendere l'aereo, ti fanno entrare prima quelli dalla 1 alla 15, poi quelli dalle 15 alla 30esima fila, è un modo ordinato, buona idea questi di Osmate Velate, grazie. Come è successo per le pensioni, che si va in base all'ordine alfabetico, ecco. Grazie Barbara. Alfredo da Firenze, via. Buongiorno. Rapido, Allora io suggerisco di utilizzare i giorni pari o dispari a seconda della propria data di nascita. Targhe alterne per i supermercati. Chi è nato il giorno 3 va ai giorni dispari, chi è nato il giorno 4 va ai giorni pari. Vabbè, anche questa è un'idea, andiamo in pausa, va. Mattino. E dunque, eccoci di nuovo alle 8:30 minuti e 20 secondi. Abbiamo chiuso sull'ipotesi di targhe alterne ai supermercati. Qualche ascoltatore dice: nessuno pensa invece ai piccoli negozi di quartiere. No, ma certamente, però è chiaro che i supermercati sono un po' il problema principale per la dimensione che hanno. Cioè, nel piccolo negozio di quartiere ci va la persona del quartiere, quindi per così dire è un po' più facile. Si fanno le code anche nel piccolo negozio di quartiere. Bisognerà trovare un sistema, anche quello. Sì, sta un po' montando la polemica. Ci ha scritto un ascoltatore dicendo medici, dove sono le ONG? Perché ieri è circolata un po' questa cosa. Dov'è finita Medici Senza Frontiere? Dov'è Save the Children? Dov'è Emergency? Si stavano occupando dei migranti, adesso non si occupano di Covid-19. Vi do notizia che in realtà è esattamente quello che stanno facendo. Medici Senza Frontiere per esempio sta intervenendo a Codogno e nell'area dell'Odigiano ormai da settimane, insomma, e quindi questo è. Vediamo se ce l'abbiamo Massimo Galli, Alessandro Marco Tulli. No, non ce l'abbiamo ancora. No. Gli ascoltatori. Però a proposito di medici, è importante vedere quello che si è scatenato come solidarietà anche da altri paesi. Nei giorni scorsi ci siamo un po', come dire, infastiditi per l'atteggiamento poco solidale di alcuni paesi. Adesso bisogna dirlo. La Germania ha accolto 8 malati provenienti dall'Italia e poi sono arrivati i medici cubani, sì, che sono però particolarmente, posso dirti una cosa? Capaci perché abituati a prendere delle decisioni drastiche, avendo Cuba avuto numerose epidemie. E tutto sommato, come dire, sono piccoli gesti in un momento in cui gli egoismi nazionali, e lo vediamo, giustamente citavi tu prima l'editoriale del direttore Fabio Tamburini e il fatto, come titola Il Sole 24 Ore, che l'Olanda si metta, come sempre, diciamolo, di traverso quando si tratta di rivedere il sistema economico dell'Europa. Beh, questi piccoli gesti riscaldano un po' il cuore, tra l'altro fammi dire una cosa su questo, si è fatto molto cinema anche a livello governativo sugli aiuti arrivati dalla Cina, dalla Russia, da Cuba, diciamo da regimi non esattamente democratici, e però praticamente abbiamo visto il silenzio sugli aiuti arrivati dagli Stati Uniti, la ONG americana che ha realizzato un ospedale da campo a Cremona, l'esercito americano che ci ha fornito di strutture ospedaliere che possono contenere fino a 10 pazienti, e poi finalmente anche la Baviera. Insomma, bisogna mettere le cose al loro posto. Gli americani per esempio non stanno facendo, oltre ad avere i loro problemi, non stanno facendo tanta pubblicità ai loro gesti di solidarietà, e però i gesti di solidarietà li fanno, e questo va detto. Stefano dalla provincia di Roma, buongiorno. Buongiorno, salve, buongiorno a tutti gli ascoltatori e a voi. Dunque, io sono un ex medico anestesista rianimatore ospedaliero, attualmente sono in pensione e sono responsabile del Tribunale dei diritti del malato locale. Dunque, credo che, fermo restando la situazione che al momento va per conto suo, cioè i media dovrebbero in questo momento sottolineare delle situazioni scientifiche reali, che sono quelle della condizione tragica dei nostri ospedali, cioè la carenza assoluta, ultra decennale, di posti letto di rianimazione e terapia intensiva, più volte sottolineate dai sindacati medici, dalla ROI, dal sindacato degli anestesisti. Io ricordo, se ne parlava già 30 anni fa, c'erano stati appelli, il taglio del personale medico e paramedico, infermieristico. Guardi, non c'è dubbio che si debba cambiare si deve cambiare totalmente l'impostazione che è stata quella degli ultimi 20 anni. Dopo il coronavirus ci sarà bisogno non solo di una politica industriale totalmente diversa, ma di scelte su terreni totalmente diversi, quindi ospedali sì, non sprechi come ci sono stati negli ultimi decenni, investimenti sul personale medico e paramedico e una revisione totale di quello che è stata la dimenticanza di gran parte di questi anni per quel che riguarda anche le aziende di prodotti medicali. Noi ci siamo ritrovati stranamente, perché invece nel 2015 era stato creato un protocollo per le epidemie, mi pare subito dopo la SARS. Comunque, noi ci siamo stranamente trovati impreparati al più grande evento epidemiologico, alla più grande guerra dal dopoguerra in poi. Ecco, questo deve servire perché non succeda più. E evidentemente lei ha ragione, per il passato, per il futuro che serva da lezione. Del resto ricordiamoci che se Singapore, se la Corea del Sud, se questi paesi, se Hong Kong sono riusciti a reagire in questo modo, è anche perché sono passati dall'emergenza della SARS, ci sono passati in maniera molto dura, e da quel momento hanno adottato dei protocolli che hanno consentito di arrivare a questo. Naturalmente noi speriamo che quando finirà questa vicenda tutti questi buchi vengano coperti e si sappia affrontare quello che adesso evidentemente non abbiamo saputo affrontare nella maniera più corretta, si possa affrontare nella maniera giusta, no? È un po' questo il punto. È chiaro che, insomma, come diciamo sempre, cara Maria, siamo in terra incognita, quindi è anche non dico giustificabile, però comprensibile che ci possano essere stati anche degli errori di valutazione. Ma di sottovalutazione lo stanno facendo un po' tutti. Guardiamo a quello che ha fatto Boris Johnson, che in 3 giorni è passato dal teorizzare l'immunità di gregge, per cui rassegnatevi a perdere i vostri cari, ne moriranno tanti ma poi saremo più forti che prima, al fatto invece di chiudere tutto, prima le scuole, adesso tutti i locali. Adesso l'Inghilterra è esattamente come l'Italia, tutto chiuso salvo le farmacie e i supermercati. Sì, tra l'altro la stessa traiettoria di contagi e la stessa traiettoria di morti, solamente che 14 giorni indietro. Ancora qualche voce di ascoltatore, Peter Bescapè, vai. Buongiorno, ringraziamo il governo che non ha i soldi per le partite IVA e quantomeno per gli agenti di commercio. Grazie, buongiorno al governo. Sono un agente di sicurezza e lavoro in Svizzera. E anche noi abbiamo un problema grave qui e abbiamo anche le mascherine che stiamo riciclando da almeno più di una settimana. E pare che possa funzionare la sterilizzazione delle mascherine mettendole in freezer alla sera e ritirandole fuori la mattina. Potete verificare questa informazione, grazie. Ciao, sono Enzo da Bologna, volevo solo segnalare che la mia compagna lavora in una casa di cura per anziani e non gli vengono fornite le mascherine. Ditemi voi. E questo è ancora il punto delle forniture mediche delle mascherine, però dovrebbero arrivare a milioni, abbiamo letto, speriamo che sia così. Speriamo che effettivamente sì. E comunque mi piacerebbe verificarla l'ipotesi che ci ha appena detto il nostro ascoltatore, cioè che si possa mettere la mascherina la notte in freezer, tirarla fuori al mattino e non averne i germi, perché esatto, non spargiamo informazioni, utile. Informazioni che non è informazione da verificare. Esatto, certo. È un'informazione assolutamente per il momento assolutamente casuale. Abbiamo un ascoltatore che ci ha chiamato, che credo che sia un imprenditore e che credo che voglia raccontare la sua storia in merito alla questione chiusure, non chiusure, i codici Ateco, che sono i codici di indicazione dell'attività economica. Buongiorno Giovanni Cipriani, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie di avermi ricontattato, buongiorno prego, a tutti. Prego. Ecco, niente, in poche parole volevo raccontare un attimo l'episodio mio. Io sono Giovanni Cipriani, l'amministratore appunto di questa azienda a Prato, Cipriani SRL. Produciamo un prodotto fondamentale per la tessitura e siamo gli unici al mondo a fornirlo, quindi il nostro business è... Che prodotto è? Che prodotto è? È il nastro per il pettine tessile, che è l'accessorio principale del telaio. Adesso dovremmo entrare nei tecnicismi, però chiunque ha presente un telaio sa di cosa sto parlando. Okay. La nostra azienda appunto ha un'esportazione al 99%, ovviamente serviamo tutti i mercati e tutti i continenti. Cosa succede se fermano noi che abbiamo un codice Ateco che risulta nei manifatturieri appunto di prodotti metallici, perché in realtà è un prodotto metallico? Succede che le tessiture non hanno il pezzo principale per tessere e quindi si fermano, perché è un accessorio che viene continuamente cambiato soprattutto in funzione degli articoli trattati. Quindi anche i camici, mi faccia capire, Cipriani, anche camici, mascherine. Se lei vuol sapere dove vengono fatti i camici, le mascherine, possiamo parlare di Turchia, Giappone, piuttosto che America, da qui Europa soprattutto, qualcosa in Italia, fermiamo tutto, fermiamo la produzione soprattutto di articoli tecnici per il filtraggio del sangue, tutta il tessuto tecnico più specialistico, ha un campo di applicazione del tessuto che ora è probabilmente il più noto, è quello che è diffuso per l'abbigliamento, ma in realtà di tessuto c'è tanta industria. I sindacati che rappresentano i lavoratori dipendenti della sua azienda le hanno chiesto di poter continuare a lavorare, nel senso che sono consapevoli anche del prezioso contributo che il vostro prodotto può dare in termini di aiuto anche in questa fase, o no? Perché il punto è solo questo, cioè l'oggetto del contendere è che i sindacati hanno posto la questione della salute dei lavoratori, chiedendo la chiusura delle fabbriche. Il governo ha passato due notti a cercare di capire quali erano le aziende che per ragioni di emergenza dovevano continuare a lavorare. Dunque è una questione che soprattutto va gestita con buon senso e con la, ovviamente dando ai lavoratori tutte le garanzie di non ammalarsi. Voi come vi siete comportati con i sindacati? Perché è una questione di sindacati soprattutto. Cipriani? Sì? I sindacati? Sì. Sì, allora sostanzialmente i sindacati, noi non abbiamo interloquito con loro, perché la nostra realtà è molto minuta, abbiamo una quindicina di addetti. E quindi non è che si parla di sistemi enormi. Purtroppo però una lavorazione, per quanto speciale, per quanto di nicchia, fondamentale per la produzione del tessuto. Noi stiamo avvisando chiaramente attraverso le procedure indicate dal governo, il prefetto, della nostra posizione, e nonché i sindaci, per dare un attimo anche una rilevanza cittadina a che cosa hanno in città, perché probabilmente non lo sanno. E attraverso questi canali di riuscire ad ottenere una proroga, una deroga a queste indicazioni. Sì, che è esattamente quello che prevede il decreto. Il decreto prevede che si può chiedere deroga al prefetto. Comunque il tema c'è, e il tema anche dei sindacati, di quello che succede con le aziende c'è, ed è da questo che iniziamo con Teresa Bellanova, ministro delle politiche agricole, ex sindacalista. Quindi insomma, chi meglio di lei ci può aiutare? Bellanova, buongiorno. Buongiorno a voi. Eccoci qua. Il tema è proprio questo, no, ministro? Perché secondo lo studio della CGIL ci sarebbero ancora 800.000 aziende aperte. Il presidente di Confindustria, Boccia, ricorda che con fatturato zero le aziende non sopravvivono. Non c'è soltanto un tema di enorme disoccupazione che si aprirà una volta che avremo vinto la battaglia sul coronavirus, ci ritroveremo delle macerie di fronte. C'è anche il tema che i sindacati mettono in prima linea di garantire la salute dei dipendenti. Allora, da ex sindacalista, lei pensa che le richieste di CGIL, CISL e UIL debbano essere accolte in toto o no? Ma io credo che il confronto, diciamo, è soprattutto il confronto stando al merito, e il metodo migliore per cercare di dare risposte a problemi che sono problemi complessi. Quelli che pensano di avere le ricette in tasca in questo momento e le tirano fuori come se si stesse al ristorante per fare un'ordinazione, sono persone, diciamo, molto superficiali. Noi ci troviamo a gestire tutti una fase che non eravamo pronti a gestire. Siamo di fronte ad una situazione, ad un'emergenza sanitaria. Il problema che ci dobbiamo porre è quello di garantire la salute di tutti. E garantire la salute di tutti non significa necessariamente chiudere o stare aperti. Garantire la salute di tutti significa intanto dotare le persone degli strumenti che li devono mettere in condizione di poter vivere e fare il loro lavoro in serenità. Allora io la questione che pongo è questa: ci sono punti che si possono chiudere sapendo che comunque sono costi che il paese dovrà affrontare, e le persone, perché quando la competitività sarà più bassa saremo tutti più provati da questa fase. Ci sono punti che garantiscono, io chiamo la filiera della vita, che deve continuare a produrre, e allora a queste persone non è che noi dobbiamo chiedere atti eroici, né dobbiamo dare loro l'idea che stanno svolgendo una funzione che comunque mette a rischio la loro vita. Allora io dico equilibrio da parte di tutti, anche nei segnali che si danno, i punti che si possono chiudere con il rigore che si deve avere nel valutare, perché ci sono aziende che stanno aperte e magari non vengono viste come aziende fondamentali per i beni essenziali, però sono aziende che magari fanno una valvola che se non viene prodotta ti blocca la produzione di quelle attrezzature sanitarie che ci mettono nella condizione di far fronte a quella carenza che oggi abbiamo. Quindi, come dire, io non ragionerei sul numero delle strutture che stanno aperte. continuerei a riflettere sulle attività che sono essenziali per garantire il sistema sanitario e anche per garantire l'alimentazione delle persone, sì, perché la buona e sana alimentazione contribuisce anche a tenere le persone in una condizione di salute, sì, migliore. Senta Ministro, adesso veniamo più nello specifico a questo che è un po' il suo. Ci dice una cosa, se medierete come governo per evitare gli scioperi di domani, quelli in Lombardia e nel Lazio? Guardi, io personalmente le devo dire che in questo momento vorrei che ci fosse un confronto diretto anche tra le associazioni imprenditoriali, le associazioni sindacali e anche il governo, perché il governo non deve sottrarsi a questo confronto. Ma faccio una domanda, è lo sciopero che risolve in questo momento la situazione o un confronto di merito dove viene segnalato quali sono i punti che si ritiene debbano stare chiusi, ma in un confronto molto franco, molto sereno, perché non possiamo rispondere, almeno questa è la mia opinione, rispettando l'autonomia e la libertà di ognuno di fare le scelte che ritiene. In questo momento però io ho la sensazione che il Paese ci chiede di essere molto razionali, soprattutto alle classi dirigenti. È un Paese dove cova la paura, tutti noi abbiamo paura. Tutti abbiamo diritto di avere paura, noi dobbiamo cercare di dare qualche segnale di serenità alle persone, qualche segnale di punti fermi dove ci sono delle persone che non stanno agendo una dinamica politica o una dinamica contrattuale, ma stanno cercando di fare responsabilmente il loro lavoro per dare quante più garanzie anche di salute e di sicurezza alle persone che devono continuare a lavorare. Beh, Ministro, lei mi pare che stia un po' facendo sue quelli che sono i messaggi che da parecchio tempo il Presidente della Repubblica Mattarella invia a maggioranza e opposizione, cercando di far capire che la guerriglia politica in questo momento non è proprio ammessa. Ora, ieri c'è stato l'incontro delle opposizioni con il Premier Conte. Giorgia Meloni, a quanto raccontano le cronache, si è detta soddisfatta, lamenta invece Salvini che ci siano pochi soldi per le misure economiche. Ora, a parte il fatto che quelle che sono state appena stanziate, 25 miliardi, sono solo le prime, dovrebbero arrivarne altre, ma non la preoccupa il segnale che arriva da alcuni paesi del nord Europa, segnatamente l'Olanda, come ricorda in prima pagina oggi il Sole 24 Ore, e non pensa che i veti delle opposizioni possano dare un'immagine di paese diviso proprio nel momento in cui invece l'Italia deve essere molto unita e solidale per poter far valere i propri interessi rispetto alla chiusura dei soliti paesi del nord Europa? Guardi, quello che mi preoccupa in questa fase molto è la superficialità. Come dicevo prima, quelli che hanno tutte le ricette in tasca si astenessero, diciamo, dal complicare la vita a chi dovrà necessariamente in un pronto soccorso, in una corsia di ospedale, in un'azienda, un lavoratore che sta dietro una cassa. Stanno facendo sforzi enormi, combattendo anche le loro paure. Allora noi dobbiamo essere molto razionali, non agire con superficialità e non sprecare. Io lo so che le risorse non sono sufficienti. Quelle che abbiamo messo nel decreto non sono sufficienti, perché siamo di fronte ad una situazione assolutamente straordinaria, ma noi dobbiamo porci in questo momento il problema. Ci sono altre risorse, dobbiamo reperire altre risorse, lavoriamo e concentriamoci su questo, ma lavoriamo anche con l'idea che non è che siccome c'è un'emergenza adesso si può promettere tutto a tutti e poi nessuno ricorda le cambiali che ha firmato. I soldi che impegniamo adesso sono quelli che stiamo prendendo dai nostri figli, e siccome chi è venuto prima di noi, e forse anche noi ne abbiamo presi troppi ai nostri figli, dobbiamo incominciare ad essere, proprio in questa fase di difficoltà in cui dobbiamo guardare anche al futuro, a quale paese esce da questa situazione di emergenza, a che cosa dovranno fare i nostri ragazzi e le nostre ragazze. Allora non un euro deve essere sprecato e dobbiamo anche avere chiaro, e questo ci tengo a dirlo con determinazione, noi siamo abituati nelle fasi di crisi a ragionare sulle persone che rimangono a casa, che giustamente devono avere il sostegno al reddito. Adesso ci sono delle persone normali a cui noi stiamo chiedendo di essere eroici. Parlo dei lavoratori che stanno nei campi, parlo dei lavoratori a volte anche immigrati che stanno nelle stalle della Lombardia o delle altre regioni del nostro paese, parlo delle cassiere, parlo dei medici, parlo degli infermieri, parlo dei netturbini, parlo di quelli che stanno nella filiera che ci mette nella condizione di avere un minimo di normalità. Parlo di quegli imprenditori che mi dicono: noi vorremmo chiudere perché vediamo la paura negli occhi dei nostri dipendenti, ma voi ci dite di andare avanti perché dobbiamo garantire la filiera alimentare. Di queste persone noi ci dobbiamo fare carico, e forse ci sono un po' di risorse che bisogna destinare proprio a loro, perché noi non possiamo andare in un'altra emergenza oltre quella che il virus ci consegna quotidianamente. Ma quindi Bellanova, lei ritiene che per questa filiera si rischi l'emergenza? Intendo che abbiamo sottolineato nei giorni scorsi le difficoltà a reperire persone che lavorino nei campi, c'è il rischio di una questione anche che ha a che fare con l'approvvigionamento dei beni alimentari, se non si interviene ovviamente. Guardi, sull'approvvigionamento adesso le persone devono avere la certezza, proprio perché ci sono altre persone umili, normali, che stanno facendo uno sforzo straordinario. La filiera è alimentata correttamente. Mercati, supermercati, ipermercati, tutti i punti vendita hanno la normale alimentazione, si trova tutti i prodotti che bisogna garantire per la nostra alimentazione. Per quanto riguarda la manodopera, certo ci sono, oggi si scopre quanto nel nostro paese è importante avere anche persone che vengono da altri paesi per aiutarci a fare bene i lavori anche nei campi. I lavori anche in pezzi di industria, di trasformazione. Mi scusi Ministra, ma c'è questo problema di manodopera o no? C'è questo problema, lo dobbiamo, certo che c'è. In questo momento non siamo ancora nella fase di raccolta di tutti i prodotti ortofrutticoli, ma nelle prossime settimane, se non troviamo soluzioni, noi ci confronteremo con questo problema. Allora, siccome non dobbiamo aspettare domani, mi sono già attivata con la Ministra del Lavoro, con la Ministra degli Interni, perché noi dobbiamo garantire attraverso la mappatura, attraverso la costruzione dei fabbisogni adesso, di quello di cui avremo necessità tra qualche settimana. E le voglio dire anche che noi dobbiamo misurarci con un altro tema. Noi abbiamo dei ghetti che sono pieni di cittadini e di cittadine che non hanno un permesso di soggiorno, che hanno lavorato in nero spesso nelle nostre campagne o anche in altri pezzi di mondo del lavoro. Noi dobbiamo farci carico di questo. Queste persone sono fondamentali per portare avanti il lavoro. Dobbiamo recuperare anche noi un po' di sana normalità nell'approcciare queste questioni, che sono state affrontate in modo molto ideologico negli anni e nei mesi passati. Proprio dobbiamo per non essere alimentare la paura nei ghetti o dobbiamo dire a queste persone che devono uscire, perché queste persone incominciano ad avere un problema con la fame, perché non sanno dove devono andare a fare la spesa. Allora noi dobbiamo alimentare il banco dell'alimentazione sana per le persone, il fondo degli indigenti, ma dobbiamo anche farci carico di come garantiamo la manodopera nei campi. Mi fa un esempio di superficialità per capirci, perché lei ha detto vedo in giro superficialità. Mi faccia un esempio, perché sennò restiamo un po' troppo generici. Un esempio di dichiarazione o di polemica superficiale che ha visto in questi giorni che non l'ha trovata d'accordo. Beh, tante, per la verità non gliene faccio solo uno, sono tanti gli esempi. No, ce ne faccia uno intanto, uno. Beh, quando per esempio si dice che bisogna chiudere i punti vendita e a chi dice guardate che c'è bisogno di avere più orari a disposizione per fare la vendita, si dice ma tu vuoi sfruttare i lavoratori? Io rispondo no, non solo non voglio sfruttare i lavoratori, io voglio rispettare i lavoratori. Allora la cassiera che sta facendo il suo lavoro, il banconista che sta facendo il suo lavoro in un negozio ha il diritto di avere scaglionate le presenze nel negozio. Come si fa questo? Restringendo gli orari o magari prevedendo che bisogna sostenere le imprese e decontribuire nuove assunzioni per allungare gli orari di lavoro? È un po' più complicato, quindi, da spiegare. Quindi devono fare questo, devono misurarsi con le cose complicate. Allora abbiamo 30 secondi, ministra. Il settore florovivaistico, ci scrivono molti ascoltatori che lavorano nel settore, che sono un po' alla disperazione, perché è un settore che ovviamente è chiuso perché la gente le piante non le compra, non è un bene essenziale, però le piante ce l'hanno là in casa e le devono mantenere, sono in ginocchio, dicono. Avete previsto qualcosa per loro? Guardi, proprio ieri abbiamo fatto un ulteriore videoconferenza con il Ministro dello Sviluppo Economico, perché fino a questo momento, e quella è la filiera, diciamo, il pezzo del comparto che più sta soffrendo, perché sono beni deperibili e beni che vanno come i fiori recisi, purtroppo vanno alla distruzione. Allora, mentre è possibile l'export, perché siamo riusciti ad avere questo canale, la vendita a domicilio che stiamo insistendo in questa fase per poter fare, c'è un passo in più che dobbiamo fare per quanto riguarda la vendita, secondo me, che bisogna garantire nei supermercati, in quelle filiere di distribuzione dove c'erano i banchi anche del florovivaismo. Io credo che bisogna mantenere quella filiera. Dopodiché è un settore nel quale bisogna destinare risorse per compensare, perché a differenza di altri settori, mentre un prodotto solido di lunga conservazione lo puoi tenere in magazzino, le piante non lo puoi fare. Grazie alla ministra Teresa Bellanova, ministra delle politiche agricole. Maria, domani alle 8:20. A domani, ciao a tutti. A tutti gli altri alle 6:30, ciao.